G. Ascolta e indica la parola che senti. 1. Vorremmo 2 caffè e un cornetto. 2. È proprio un ragazzo immaturo. 3. Viene da Mantova. 4. Ho macchiato la camicia. 5. Ecco la conferma. 6. È caduto un masso. 7. Ha scelto un abito da sposa senza velo.